Grazie molte. Io ringrazio Paolo per avermi invitato, ma anche per una chiacchierata che abbiamo fatto che ha costruito un po' questo intervento. Non vi racconto tantissimo perché non potrei farlo, non è la sede. Pensavo a fare un ragionamento in due o tre punti. Il primo nasce proprio dal taglio, per quel che io ho capito, di questa nostra discussione di questa sera. Che coniuga appunto cose che apparentemente sembrano estranee. Da una parte una trasformazione delle città rapida e radicale, come non ci ricordavamo fosse da molti decenni, e che ha investito molte città del nostro paese, Torino, Milano, ma queste sono forse quelle più richiamate, anche città del centro Italia, anche città minori. Sono dalla metà degli anni 90 e per ragioni che non sfuggono, che hanno a che fare con i rendimenti in borsa, che hanno a che fare con non solo con la dismissione, le aree industriali dismesse è un fenomeno più lungo. Allora, da una parte queste grandi trasformazioni che colpiscono l'attenzione, perché io parlo un po' da architetto urbanista, scusate, insomma ognuno parla un po' nelle vesti in cui è. E gli architetti e gli urbanisti si erano occupati di diffusione, di città dispersa, della Brianza, del Veneto, non che non siano importantissime realtà insediative, ma ci eravamo un po' dimenticati di guardare da vicino quel che stava succedendo nelle città. Questo fino grosso modo agli anni 90. E poi è scoppiata questa cosa, come dire, al traino di eventi. Grandi, piccoli, le Olimpiadi invernali a Torino nel 2006, l'Expo a Milano, i Giochi del Mediterraneo a Pescara e così via. Allora, da una parte, dicevo, coniuga due cose un po' strane, da una parte questo, dall'altra parte un'agricoltura urbana. Allora, l'agricoltura urbana è qualcosa di molto diverso dall'agricoltura tradizionale, adesso mi sembra qui non vorrei entrare più di tanto al metro, ci lavorate e ne parlate, però la cosa interessante e che cogliamo anche nella stanza, è la capacità di intrecciare all'interno di aree che sono quelle periurbane, intraurbane, intrecciare attività che non rispondono solo a una domanda economica, no? Rispondono a una domanda ecologica, a una domanda sociale, culturale, incrociano aspetti diversi. Per cui quella che era nata come un'uscita in funzione di ragioni di sviluppo per paesi non ancora sviluppati, così si dice, assume rispetto alla città contemporanea occidentale una molteplicità di significati. Bene, che cosa hanno a che fare questi due punti di vista? Sembrerebbe poco, niente. In realtà io trovo che l'intuizione di questa discussione, per come io l'ho capita, è molto alta e per arrivare al punto, a questa intuizione, vorrei appunto fissare, ma veramente molto brevemente, l'attenzione sulle trasformazioni, per poi capire come queste eventualmente si rapportano con i temi dell'agricoltura urbana, con una piccola digressione che farei volentieri. Allora, porto via però poco tempo. Dicevo, fissiamo un attimo ancora l'attenzione sulle trasformazioni. Ovviamente io ho in mente molto Torino per averla studiata, perché è 5 anni che lavoro, che studio lì, lavoro e studio lì. Torino è molto celebrata. La vicenda di Torino è celebrata a livello sociale da una popolazione che si sente orgogliosa, di quello che è stato, ovviamente a livello istituzionale. In modo molto forte, è celebrata anche in luoghi nei quali ci aspetteremo un atteggiamento critico riflessivo maggiore. Ho in mente il supplemento culturale del manifesto di settimana scorsa, che apre con una celebrazione che francamente mi ha lasciato un po' di stucco. Le Olimpiadi sono state, come dire, vengono richiamate sempre per la capacità che hanno di mostrare la grande distanza che la città ha oggi rispetto all'immagine grigia della Vietnam, per ricordare un film che chi ha la mia età ricorda, è un film di Ettore Scola di molto tempo fa. A Torino era l'unica company town in Italia, l'unica città fordista in senso duro. E l'immagine che esce da queste Olimpiadi è un'immagine diversa. Ora, a me non interessa adesso entrare, non posso farlo, però voglio mettere in luce un punto che mi sembra invece interessante. Che forma hanno le politiche che hanno governato, le politiche urbane che hanno governato questa trasformazione? Che poi questa trasformazione sia nata, come c'è una sorta di leggenda metropolitana, sia nata da Agnelli piuttosto che... Mi interessa poco. Guardo alla forma delle politiche. La forma delle politiche, a mio giudizio, in due battute, scusate, poi queste cose sono schematicissime, dette così, però da una parte c'è una tensione forte ad ammodernare, a una modernizzazione della città attraverso, guarda caso, grandi infrastrutture e grandi attrezzature urbane. Ben inteso, questa cosa non è un male in sé, però bisogna capire l'enfasi e la forza che ha. Quasi entro una logica dirigista della politica, una logica keynesiana forte, quindi sì, investe in infrastrutture. Dall'altra parte c'è una resa al mercato immobiliare, secondo piano, e anche qui ci sarebbe da raccontare a lungo le vicende che io conosco forse un po' più da vicino, Spina 3, ma sono vicende che forse si conoscono anche fuori Torino, 1 milione di metri quadrati a 600 metri da Piazza Statuto, un'area straordinaria che nel giro di 15 anni passa da 5 proprietari, che sono 5, a una miriade di piccoli proprietari, con un capovolgimento che vede appunto a metà degli anni 90 il 70% del suolo in mano a questi 5 proprietari, 15 anni dopo l'80% del suolo pubblico, ed è straordinario. Gli urbanisti un po' tonti pensano che questa sia la condizione di una trasformazione migliorativa importante. Ahimè, basta una passeggiata a Spina 3 per capire che cos'è la resa al mercato immobiliare. Quindi dicevo, un ammodernamento nelle infrastrutture, la resa al mercato e i grandi eventi. Perché è il plurale? Perché funzionano in una logica cinematografica, sono dei sequel, dopo l'uno c'è il 2, il 3, il 4. Noi abbiamo avuto a Torino le Olimpiadi invernali, quelle della scherma, quelle della, adesso non ricordo neanche, degli scacchi, il congresso mondiale degli architetti e così via, la capitale del libro. Perché funzionano con una rendita di posizione, si pensa ad utilizzare la capacità gestionale, ma non solo, anche poi di infrastrutture, che viene lasciata per... Ecco. Allora, queste tre, allora, è una forma nuova della politica che gioca, della politica urbana ovviamente, che gioca almeno su questi tre piani. E guardate che per questo mi incuriosisce sempre la celebrazione. Questa è una forma paradossale, perché da una parte una politica dura, una politica keynesiana, si punta sul capitale fisso sociale e si dice lì c'è la condizione per lo sviluppo e l'ammodernamento, per una maggiore qualità della città. E dall'altra parte sì, attraverso gli eventi costruiscono invece queste politiche molto evanescenti, molto seduttive, pubblicitarie, molto schematiche anche, che mettono in gioco appunto tutte le immagini che è possibile mobilitare rispetto a ciascuna area, e questo è un paradosso forte. Allora, una piccola digressione e poi chiudo con il ritorno sull'agricoltura. La digressione: siamo attrezzati come cittadini, e io dico come architetti urbanisti, a far fronte a questa nuova forma della politica che sta cambiando radicalmente il volto scusate, adesso ho un'enfasi un po' eccessiva, però che sta cambiando fortemente le città. Io non credo che siamo tanto attrezzati a farlo. Architetti urbanisti in questo momento sono degli attori afasici, hanno una grande difficoltà a creare sensibilità critica, pensiero critico intorno alla città. Le ragioni di questo non vi annoio, non interessano neanche, interessano gli architetti e gli urbanisti, però c'è un punto importante. Perché non siamo capaci? Perché il nostro è un discorso acquietato in questo momento, a fronte di questa cosa che vi dicevo prima, è un discorso che ha espunto un contrasto, che ha espunto la legittimità di un conflitto come costitutivo poi delle trasformazioni. È un discorso che si limita a dire che gli ammodernamenti, le trasformazioni, adesso sto radicalizzando ovviamente, le infrastrutture, gli eventi sono buoni per tutti, sono un bene per tutti, che si accontenta della pluralità, di una declinazione plurale. Questo è veramente l'ascito becero, a mio giudizio, di tanto multiculturalismo, che è acquietante perché spunge il conflitto, perché nelle differenze c'è posto per tutti purché ognuno stia al suo posto, perché si celebra la differenza ma poi in qualche modo si nega la possibilità di chi è nella differenza di negoziare il proprio posto nella differenza. E da questo punto di vista, finché si porta avanti un discorso che è un discorso acquietato, che è un discorso attento è un discorso ideologico, perché si accontenta in qualche modo di sostenere che siamo in una società che attraversata da una pluralità di traiettorie, di valori, le quali, se ben governate, sono conciliabili e tutto. Si appella a delle nozioni, tirandole come degli elastici fino a farle diventare delle retoriche vuote, che sono la nozione di dialogo, la nozione dell'incontro, la nozione della tolleranza. Ora so bene, e non mi venite a dire, che in questo paese, in questo momento, avere un atteggiamento di distanza rispetto a nozioni come quelle di tolleranza è quasi insopportabile, perché siamo tutti i giorni a fronte di episodi di grande intolleranza. Però quello che io vorrei sottolineare è il fatto che, di nuovo, nella celebrazione c'è l'imperativo della tolleranza. Se stiamo male non è una questione di ingiustizia o di sfruttamento, ma una questione di intolleranza, e l'emancipazione è rimandata alla tolleranza, è questo che voglio dire. Allora, da questo punto di vista, a me pare che in questo momento, io ho parlato di architetti urbanisti, ma viva Dio, perché mi sembra una questione quasi di educazione, direi che in generale il discorso sulla città è un discorso celebrativo e fortemente ideologico, per le ragioni che dicevo prima, per avere spunto con forza qualsiasi elemento di contrasto. Ve le ricordate tutte come sono state trattate la questione delle banlieue? Quando c'è contrasto è qualcosa che riguarda minoranze disagiate o quant'altro. Di nuovo una precisazione: non sto dicendo che non ci sia conflitto, sto dicendo che il discorso sulla città è acquietato in un momento in cui la città sta completamente modificandosi. Allora torno e chiudo. Che cosa hanno a che fare grandi trasformazioni urbane e agricoltura urbana? Se io guardo alle trasformazioni, per esempio, torinesi, e cerco di interrogarmi su quali retoriche hanno mosso queste politiche, che dicevo prima, sono politiche che coniugano almeno questi tre piani, l'ammodernamento, gli eventi e il mercato, a cosa si appellano? A delle retoriche che sono quelle, appunto, dell'ammodernamento, la modernizzazione delle nostre città, che viva Dio ci vuole, oggi per venire qua ci ho messo un sacco di tempo, quindi non dico che in sé è qualcosa, però la retorica della modernizzazione, la retorica della grande coesione, la grande coesione sociale che gli eventi si portano dietro, l'orgoglio locale, la capacità di mostrare una capacità di gestire eventi molto complicati, perché poi Expo, Olimpiadi, stiamo parlando di eventi di grande difficoltà, come dire, riportano grandi risorse, ma è anche molto, molto complesso, la costruzione di paesaggi urbani migliori. Ecco, il mio timore, la cosa che vorrei porre un po' alla nostra discussione, che mi sembra una cosa interessante, è attenzione che l'agricoltura urbana non diventi, non occupi il posto che il paesaggio ha occupato nelle retoriche fino a poco tempo fa, qualcosa sul quale si è d'accordo, perché è talmente vago che poi alla fine ognuno intende quel che crede, che si porta dietro, e diventi una retorica del quale le grandi eventi possano in qualche modo utilizzare entro una politica anche legittima di acquisizione di consenso, non dico che non ci sia. Quindi io credo che ci sia un modo meno perverso per coniugare processi di trasformazione urbana più o meno trainati, a Milano siamo all'interno, poi adesso sentirò all'interno di questa vicenda Expo, più o meno trainati da grandi eventi, e la possibilità di valorizzare anche altro, a patto di tenere un po' gli occhi aperti affinché questo non diventi solo l'ennesima vuota retorica di cui poi ci si appropria per legittimare posizioni. Sono stata più radicale di quel che avrei voluto, perché poi insomma non va bene, però mi sembra che in poco tempo non potessi fare un discorso molto più articolato. Grazie.